Sei in diretta, allora, dici dove allora, sei. Praticamente eravamo in piazza San Giovanni, ma ci hanno accerchiato. Sono arrivati dall'altra via, quella lì dove c'è la coin. Sì, via Appia. Via Appia. Sono arrivati anche da lì e da lì hanno iniziato ad arrivare a piedi e con i lacrimogeni. Abbiamo bloccato il traffico e ci siamo messi nella via di fronte. Però adesso vediamo un po' di sbirri da lontano, noi in questo momento ci siamo allontanati un po' dalla zona calda. Chiaramente, ma nella zona calda che vedete cosa sta avvenendo in questo momento? No, cioè, ci sono degli scontri? Ah, ok. No, allora, gli scontri sono proseguiti almeno un'oretta, due diversi idranti sono dovuti indietreggiare per le sostaiole, qualche macchina è andata a fuoco. Però quando siamo stati attaccati siamo stati un po' spezzati, adesso c'è ancora tutta la gente, penso che sia ancora dentro piazza San Giovanni, mentre noi siamo fuori, siamo... Ma quindi a piazza San Giovanni non c'è via di uscita al momento da piazza San Giovanni? Praticamente noi siamo scappati da via San Giovanni perché ci sentivamo chiusi, cioè ci sentivamo che stavano arrivando dalle spalle, da fronte di fronte. Al posto di andare verso Porta Maggiore abbiamo deciso di attraversare Porta San Giovanni e venire da quest'altra parte. Va bene, d'accordo. Va bene, appena avete altre informazioni fateci sapere. Va bene, ok. Grazie mille.